andammo a sederci. Ma prima di allontanarsi dal gruppo formato dal signor di Charlus con i due giovani Surgi e la loro genitrice, Swann non poté astenersi dal concentrare sulla scollatura della marchesa lunghi sguardi di intenditore, dilatati e concupiscenti. Si mise addirittura il monocolo per vedere meglio e ogni tanto, senza smettere di parlarmi, lanciava un'occhiata in direzione della dama. «Eccovi, parola per parola», esordì quando ci fummo seduti, «la mia conversazione col principe. E se ricordate quel che vi ho detto oggi nel pomeriggio, capirete perché vi ho scelto come confidente. Ma c'è anche un'altra ragione che saprete un giorno. Mio caro Swann», mi ha detto il principe di Garmont, «vorrete scusarmi se negli ultimi tempi ho dato l'impressione di evitarvi. Non me ne ero affatto accorto, malato come sono, io per primo cerco di evitare ogni incontro. Innanzitutto avevo sentito dire, e d'altronde lo prevedevo, che avevate riguardo al malaugurato affare che divide il paese opinioni diametralmente opposte alle mie. Ora sarebbe stato troppo spiacevole per me che le professaste in mia presenza. La mia suscettibilità era tale che 2 anni fa la principessa, sentendo suo cognato il granduca d'Assia sostenere l'innocenza di Dreyfus, non soltanto l'aveva vivacemente interrotto, ma non me ne aveva nemmeno fatto cenno per non contrariarmi. Pressappoco, nello stesso periodo, il principe ereditario di Svezia era venuto a Parigi e, avendo sentito dire probabilmente che l'imperatrice Eugenia era dreyfusista, l'aveva confusa con la principessa. Strana confusione, me lo concederete, fra una donna del rango di mia moglie e una spagnola, assai meno bennata di quanto non si pretenda e sposata a un semplice Bonaparte, e le aveva detto: «Principessa, sono doppiamente felice di vedervi, perché so che avete le mie stesse idee sull'affare Dreyfus e la cosa non mi stupisce dal momento che Vostra Altezza è bavarese». Uscita con la quale il principe si era guadagnato la seguente risposta: «Monsignore, ormai sono soltanto una principessa francese e la penso come tutti i miei compatrioti». «Ebbene, caro Swann, una conversazione avuta circa 1 anno e mezzo fa con il generale de Beausefeuille mi inoculò il sospetto che non un errore, bensì un certo numero di gravi illegalità fossero state commesse nella conduzione del processo». Fummo interrotti. Swann non voleva che altre orecchie udissero il suo racconto dalla voce del signor di Charlus, il quale, senza peraltro curarsi di noi, stava riaccompagnando Madame de Surgi e si fermò nel tentativo di trattenerla ancora, fosse a causa dei figli oppure per il desiderio comune a tutti i Garmont di non veder finire l'attimo presente, desiderio che li metteva in stato d'ansiosa inerzia. A questo proposito, seppi in seguito da Swann una cosa che ai miei occhi spogliò il nome di Surgi le Duc di tutta la poesia che m'era parso contenere. La marchesa di Surgi le Duc vantava una posizione mondana assai più brillante e parentele assai più prestigiose di suo cugino, il conte di Surgi, che viveva poveramente nelle sue terre. Ma la parola che concludeva il titolo, le Duc, non aveva affatto l'origine che io l'avevo attribuita, accostandola nella mia immaginazione a Bourglabé, Bois-le-Roi, eccetera. Molto semplicemente, un conte di Surgi aveva sposato durante la Restaurazione la figlia di un facoltoso industriale, il signor Le Duc, o Le Duc, figlio di un fabbricante di prodotti chimici che era l'uomo più ricco del suo tempo e pari di Francia. Per il figlio nato da quel matrimonio, il re Carlo X aveva istituito il marchesato di Surgi-le-Duc, quello di Surgi esistendo già nella famiglia. L'aggiunta del cognome borghese non aveva impedito a quel ramo di imparentarsi, grazie al suo immenso patrimonio, con le prime famiglie del regno. E l'attuale marchesa di Surgi-le-Duc, dama di grande nascita, avrebbe potuto detenere una posizione di prim'ordine. Un demone perverso l'aveva spinta, in spregio di una sistemazione sicura, ad abbandonare il domicilio coniugale, a condurre una vita delle più scandalose. Poi, il mondo che ella aveva disprezzato a 20 anni, quando lo aveva sui piedi, le era crudelmente mancato a 30, quando da ormai 10 anni nessuno, tranne poche amiche fedeli, la salutava più. E aveva intrapreso la laboriosa riconquista, pezzo per pezzo, di ciò che possedeva dalla nascita. Simili andate e ritorni sono tutt'altro che infrequenti. Quanto ai gran signori con i quali era imparentata e che, rinnegati un tempo da lei, l'avevano a loro volta rinnegata, la marchesa adduceva, per giustificare la gioia che provava nel riguadagnarseli, gli episodi della sua infanzia che avrebbe potuto rievocare in loro compagnia. Lo diceva per dissimulare il suo snobismo, ma mentendo, forse, meno di quanto non credesse. «Bazin è tutta la mia giovinezza», aveva proclamato il giorno in cui il duca era tornato da lei. E in effetti era un po' vero. Ma aveva fatto male i suoi calcoli scegliendolo come amante. Tutte le amiche della duchessa di Grammont, infatti, avrebbero preso partito per Orient e Madame de Surgy avrebbe disceso per la seconda volta quella china che aveva risalita con tanta fatica. «Ebbene», le stava dicendo il signor di Charlus, che voleva prolungare il colloquio, «deporrete i miei omaggi ai piedi di quel bel ritratto. Come sta? Che fa di bello?» «Ma», rispose Madame de Surgy, «sapete bene che non lo possiedo più. Mio marito non è rimasto contento». «Non contento? Non contento di uno dei capolavori della nostra epoca, non inferiore alla duchessa di Châteauroux di Nattier, e a parte tutto, impegnato nell'ardua sfida di fissare una non meno maestosa e terribile dea. Quel collettino azzurro. Bisogna pur dire che Vermeer non ha mai dipinto una stoffa con tanta maestria. Però non diciamolo troppo forte, altrimenti Swann ci salterà addosso per vendicare il suo pittore preferito, il maestro di Delft». La marchesa, girandosi, rivolse un sorriso e tese la mano a Swann, che s'era alzato per salutarla. Ma non appena, stringendo la mano alla marchesa, egli ebbe visto da vicino e dall'alto il suo seno, fu quasi senza dissimulazione, come se una vita ormai declinante gliene avesse tolto la volontà morale, per indifferenza dell'opinione altrui, o il potere fisico, per l'esaltarsi del desiderio e l'affievolirsi delle energie atte a nasconderlo, che Swann affondò uno sguardo attento, serio, assorto, quasi preoccupato, nelle profondità della sua scollatura, mentre le narici, inebriate dal profumo della donna, gli palpitavano come una farfalla quando sta per posarsi sul fiore appena addocchiato. Poi bruscamente si strappò alla vertigine che l'aveva colto e la stessa Madame de Surgy, sebbene imbarazzata, soffocò un profondo sospiro, tanta è a volte la forza di contagio del desiderio. «Il pittore se n'è risentito», continuò rivolta a Charlus, «e si è ripreso il quadro. Mi hanno detto che adesso è in casa di Diane de Saint-Nouvel». «Non riuscirò mai a credere», replicò il barone, «che un capolavoro abbia tanto cattivo gusto». «Le sta parlando del suo ritratto?» «Io gliene parlerei bene quanto Charlus, di quel ritratto», commentò Swann, affettando un tono indolente e sguaiato e seguendo con gli occhi la coppia che s'allontanava. «E ne ricaverai sicuramente più piacere di lui», aggiunse. Gli chiesi se quel che si diceva di Charlus fosse vero. Mentivo 2 volte, giacché, mentre non mi risultava che se ne fosse mai detto nulla, in compenso sapevo benissimo da quel pomeriggio che ciò cui alludevo era vero. Swann alzò le spalle, come se avessi proferito un'assurdità. «Ossia che è un amico delizioso, ma non occorre aggiungere che la cosa è puramente platonica. Mémé è più sentimentale di altri, ecco tutto. D'altra parte, siccome non va mai molto lontano con le donne, questo ha dato qualche credito alle voci insensate cui intendete riferirvi. Può darsi che voglia molto bene i suoi amici, ma tenete per certo che mai niente è successo se non nella sua testa e nel suo cuore. Avremo forse 2 minuti di tranquillità, se Dio vuole. Dunque, il principe di Grammont continuò. Vi confesso che l'idea di una possibile illegalità nella conduzione del processo mi riusciva estremamente penosa per via del culto che ho, come sapete, per l'esercito. Ne riparlai col generale e a quel punto, ahimè, non ebbi più alcun dubbio. Vi dirò francamente che in tutta la faccenda il pensiero che un innocente potesse subire la più infamante delle condanne non m'aveva nemmeno sfiorato. Ma tormentato da quell'idea di illegalità, mi misi a studiare ciò che non avevo mai voluto leggere. Ed ecco che altri dubbi, non solo sull'illegalità stavolta, ma sull'innocenza, cominciarono ad assillarmi. Non mi parve di doverne parlare alla principessa. Dio sa che è diventata francese quanto me. Malgrado tutto, dal giorno in cui l'ho sposata, ho posto tanta cura nel mostrarle la nostra Francia in tutta la sua bellezza, in particolare ciò che la Francia ha secondo me di più splendido, l'esercito, che mi riusciva troppo crudele metterla a parte dei miei sospetti, sebbene, a dire il vero, ne fossero coinvolti solo alcuni ufficiali. Ma io appartengo a una famiglia di militari e non volevo credere che degli ufficiali potessero sbagliare. Ne parlai nuovamente a Beausefeuille. Mi confessò che erano state ordite delle colpevoli macchinazioni, che il Bordereau forse non era di Dreyfus, ma che la prova schiacciante della sua colpevolezza esisteva. Era il documento Henri, e pochi giorni dopo saltò fuori che si trattava d'un falso. Da quel momento, di nascosto dalla principessa, mi misi a leggere ogni giorno Le Siècle e l'Aurore, e in breve tempo gli ultimi dubbi scomparvero, non riuscivo più a dormire. Confidai le mie sofferenze morali al nostro amico, l'abate Poiret, nel quale rinvenni con stupore la mia stessa convinzione, e gli feci dire delle messe a beneficio di Dreyfus, della sua sventurata moglie e dei suoi figli. Proprio in quei giorni, un mattino che mi recavo dalla principessa, vidi che la sua cameriera nascondeva qualcosa in una mano. Le chiesi, ridendo, che cosa fosse. Arrossì e si rifiutò di dirmelo. Ho sempre avuto fiducia assoluta in mia moglie, ma quell'incidente mi turbò profondamente. E non meno, certo, dovette turbare la stessa principessa, cui la cameriera l'aveva evidentemente riferito, giacché durante la colazione di quel mattino la mia cara Marie mi rivolse appena la parola. Lo stesso giorno chiesi all'abate Poiret se l'indomani avrebbe potuto celebrare la mia messa per Dreyfus. «Accidenti!» esclamò Swann sottovoce, interrompendosi. Alzai la testa e vidi il duca di Guermantes che veniva verso di noi. «Scusatemi se vi disturbo, amici. Ragazzo mio», disse rivolgendosi a me, «Orient m'ha incaricato di una missione presso di voi. Marie e Gilbert le hanno chiesto di fermarsi a cena con non più di 5 o 6 persone. La principessa d'Assia, Madame de Ligne, Madame de Tarente, Madame de Chevreuse, la duchessa di Arenberg. Purtroppo noi non possiamo rimanere perché andiamo a una specie di festicciola». Lo ascoltavo, se non che ogni volta che dobbiamo fare qualcosa in un determinato momento, diamo incarico dentro di noi a un certo personaggio, esperto in simili incombenze, di tener d'occhio l'orologio e avvertirci in tempo. Questo servitore interno mi rammentò, come l'avevo pregato di fare alcune ore prima, che Albertine, in quel momento lontanissima dal mio pensiero, sarebbe venuta a casa mia subito dopo il teatro. Così rifiutai la cena. Non che non mi trovassi bene in casa della principessa di Grammont, ma gli uomini possono essere sensibili a varie specie di piaceri. Il più vero è quello per il quale lasciano l'altro, ma quest'ultimo, se è apparente, anche solo apparente, può imbrogliare le tracce riguardo al primo, rassicurare o sviare il geloso, confondere il giudizio della gente. Eppure basterebbe, perché lo sacrificassimo all'altro, un po' di felicità o un po' di sofferenza. A volte un terzo ordine di piaceri, più seri ma più essenziali, non esiste ancora per noi, e la sua virtualità si manifesta solo provocandoci dei rimorsi, degli scoramenti, e tuttavia è proprio a questi piaceri che finiremo col dedicarci. Per fare un esempio nettamente secondario, un militare in tempo di pace sacrificherà la vita mondana all'amore. Ma una volta scoppiata la guerra e senza che occorra far intervenire nessuna idea di dovere patriottico, l'amore alla passione. Più forte dell'amore di combattere. Swan aveva un bel dichiararsi felice di raccontarmi la sua storia. Sentivo benissimo che quella conversazione con me era, a causa dell'ora tarda e perché stava troppo male, una di quelle fatiche di cui chi si rende conto d'uccidersi a furia di notti in bianco e di eccessi prova, rincasando, un rimorso esasperato, simile a quello dei prodighi, i quali peraltro non potranno trattenersi domani dal gettare altro denaro dalla finestra per il folle sperpero cui si sono abbandonati una volta di più.